Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornata a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi rievoca l'incontro tra i capelloni e la musica beat con il pioniere di Gianni Rodari e Dina Rinaldi. Un incontro non facile, tutt'altro fatto di incomprensioni e sospetti. Forse per quegli adolescenti della metà degli anni 60, la frontiera della svolta fu una trasmissione radiofonica della RAI, nata il 16 ottobre del 1965, trasmissione condotta dagli allora giovani Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Si chiamava Bandiera Gialla, espressamente dedicata ai teenagers. Tanto per intenderci, un mondo canoro RAI in cui ancora amore faceva rima con cuore, Bandiera Gialla trasmetteva dischi come Auschwitz dell'Equipe 84, Respect di Aretha Franklin, Michelle dei Beatles o You Were On My Mind di Barry McGuire. Well, I woke up this morning and you were on my mind. You were on my mind. Oh, I got trouble. Ma cos'era? Come nacque e cosa rappresentasse di nuovo Bandiera Gialla? Lo spiegano lo stesso Renzo Arbore e Maurizio Brigante, responsabile del programma Maribelle alle granitiche tradizioni musicali di Saxa Rubra. I ragazzi di Bandiera Gialla, il pubblico che seguiva Bandiera Gialla, oggi ha 70 anni, 65, sì, 70 sì. Anni. Incontro dei signori col bastone che mi dicono: sono un ragazzino di Bandiera Gialla. Perché è 1965, Bandiera Gialla con Rocky Roberts fu proprio la rottura della, e la riscossa della radio, perché i ragazzi che non ascoltavano più la radio ma vedevano la appena nata televisione scoprirono che c'era una musica per loro, dedicata proprio per i teenagers, per loro il sabato pomeriggio con Gianni Boncompagni e il sottoscritto. Quindi fu la vera rivoluzione. Il titolo fu inventato da Luciano Rispoli, altro dirigente, sì, certo, della radio che vogliamo ricordare, certo, esatto, proprio perché potevamo mettere dei dischi fuori legge. Quando c'è Bandiera Gialla, che la gioventù è bella, e il tuo cuore batterà. Per poter fare Bandiera Gialla, io però non è che proteggevo loro così, perché a me faceva piacere che i ragazzi italiani ascoltassero le stesse canzoni degli inglesi, dei francesi, dei tedeschi, degli olandesi e degli americani, no? Quindi perché non stare up to date, no? Fare cotte e mangiate e sentire la musica come loro. Allora, per fare questo doveva essere escluso dai programmi Bandiera Gialla, la bandiera degli appestati, e noi l'abbiamo l'appestati. Il quarto gruppo è formato da tre uomini molto grossi. Uno è il complesso inglese, stabilitosi in Italia, molto bravo. Il secondo è un nome che voi tutti conoscete, che si chiama Patti Bravo. Ferruccio, Ferruccio, tu l'hai capito che ho deciso di rifarlo. Ricordiamo che il maestro Giulio Razzi era direttore della radio perché aveva scritto delle belle canzoni. E il maestro Giulio Razzi un giorno arrivò alla radio dall'America, dove era stato a vedere che cosa facevano le radio americane, e a me e al signor Boncompagni disse: sapete che negli Stati Uniti i maestri programmatori di musica leggera parlano e sono gli stessi che presentano i dischi che scelgono, si chiamano disc jockeys, E noi diciamo, lo sappiamo, grazie del plugale, perché e nacquero i dischi giochi radiofonici. Noi avevamo la licenza di mettere dei dischi che scegliavamo noi e che non facevano parte dell'archivio della RAI, che era un archivio che doveva essere assolutamente nulla di palma, nobile, delle cose, sì, ma doveva essere così. Insomma, c'era i dischi che venivano catalogati nell'archivio RAI, erano sentiti con una grandissima attenzione e poi c'era un giudizio su ogni disco, complesso vocale e strumentale con difetti di intonazione. Che meraviglia. Chi erano? I Beatles. Sì. Con difetti di intonazione. Bandiera Gialla ebbe comunque un successo travolgente tra le giovanissime generazioni, cosa non poteva sfuggire all'attenta redazione del Pioniere, che infatti nel marzo del 66 mandò una sua delegazione giornalistica accompagnata da alcuni ragazzi a trascorrere un'intera giornata negli studi di Arbore Boncompagni. A seguire, questa esperienza si tradusse in due paginone sul Pioniere del 31 del mese stesso, numero 13, intitolata Visita la RAI mentre si incide, Bandiera Gialla, la scatenata trasmissione vietata ai maggiori di 18 anni. Poi si leggeva nell'occhiello, intervista con Gianni Boncompagni. Cos'è la musica beat? Solo ritmo indiavolato esprime qualcosa? Capelloni e ben pensanti, i Beatles e le scipite canzoni di Sanremo. Tutto finito? Niente affatto. Nella pagina delle lettere al giornale, dove Rodari si firmava come amico del giovedì, arriva la lettera di un giovane lettore, del tutto sorpreso e deluso che il suo foglio comunista desse spazio a questi lazzaroni dal bulbo lungo. Quando c'è bandiera gialla, era gioventù e bella. A proposito di bandiera gialla, il lettore Fulvio Fania di Genova ci scrive: caro amico del giovedì, adesso non andiamo d'accordo, eh? Quando per la prima volta ho avuto la malaugurata idea di ascoltare Bandiera Gialla, mi scusi Gianni Boncompagni, così gentile con noi amici del Pioniere, mi sono chiesto se il mondo di domani sarà davvero così disastroso. Sì, non esagero. Nessuno mi ha evitato il mal di testa, nemmeno i divini scarafaggi. Speravo che qualcuno fra gli amici che ho più cari condividesse le mie idee e le mie reazioni. E invece? Anche tu, attraverso l'articolista Elisabetta Bonucci, mi hai comunicato che aderisci al terribile movimento Cappellone. Mi riferisco, come è evidente, all'articolo apparso sul numero 13 del 31 marzo. Ma procediamo con ordine, perché non voglio cadere anch'io nella confusione dei giovani scatenati d'oggi. Mi vorrei soffermare su di un problema che soprattutto la gioventù, nei limiti delle sue capacità, dovrebbe affrontare quando trova delle scimmie, dei beat, e cioè il problema giovani e società. Neppure io voglio essere una mummia o un sepolcro imbiancato della società, quando lo studio, che pure mi attira, mi permette di evadere un poco. Anche io so che purtroppo viviamo in tempi moderni con metodi quasi medioevali e so anche che bisogna protestare, ma vorrei tanto sapere quale effetto positivo in tal senso possa offrire un Cappellone dimenandosi, urlando e magari, se andiamo a cercare il lato più grave, sedendosi in Piazza di Spagna a Roma e dormendo al bivacco. Ma manteniamoci sull'argomento che lontanamente ci ricorda la musica. Coloro che hanno lanciato per primi il grido di protesta contro la società. Oggi hanno le tasche gonfie di dollari e per essere veri partigiani di una società moderna. Sono anche baronetti della regina d'Inghilterra. Il ritmo odierno, a mio avviso, può in certi limiti esprimere un desiderio di evasione e di protesta, ma alcune manifestazioni esteriori sono totalmente controproducenti, esprimono un senso di debolezza. E se noi giovani siamo deboli, cerchiamo di vincere noi stessi, diveniamo più seri, più uomini e meno scimmie. E speriamo che io non sia unico ad avere queste idee. Bandiera gialla, era giovane. Rodari non vuole rispondere subito, ma apre un dibattito nel suo spazio di lettera al direttore, in cui chiama tutti ad esprimersi su tale argomento. Apriti cielo, per tutte le settimane a seguire arrivano pacchi di missive di cui almeno 9 su 10 riempiono di critiche e di improperi il malcapitato contestatore dei contestatori capelluti. Quindi, chiuso con imperio questo dibattito, altrimenti andava avanti all'infinito, dopo 5 settimane Rodari dice la sua. Eh sì, cari ragazzi, perché a mio avviso questi cappelloni un po' ridicoli lo sono, dovete ammetterlo, sia quelli di certi gruppi musicali che di tanti loro imitatori, e le imitazioni sono già di per sé ridicole. Per questo è giusto insultarli, deriderli o addirittura arrestarli? Non solo non è giusto, ma rivela una tendenza antidemocratica. Civiltà significa appunto che ognuno in tema di vestiario o di acconciatura si regoli come vuole, purché non dia scandalo e non noccia gli altri. Lasciamo dunque ai cappelloni le loro chiome fluenti, tanto peggio per loro, no, con questo caldo. E più che una protesta, consideriamola una posa, ma neanche escludiamo che tra di loro vi siano ragazzi impegnati che manifestano in modi più impegnati ancora la loro protesta. In queste poche righe Rodari dà un giudizio severo sui cappelloni. Per lui in fondo è un fenomeno un po' patetico, sono figli di una moda eccentrica, anche se poi Rodari intravede comunque alcune possibilità più interessanti in alcuni di questi contestatori. Comunque, in queste stesse poche righe sta tutta la grandezza di Rodari, per cui non si vieta anche ciò su cui non si è d'accordo, ma anche la fragilità del narratore per ragazzi di tutta la redazione del Pioniere a fronte di questa novità generazionale della musica beat. Quella del Pioniere è una generazione temprata durante la resistenza al nazifascismo e anche nei durissimi anni 50, dove la contrapposizione era tra chi inneggiava all'America e al mondo libero e chi guardava l'URSS e al socialismo. Dubbi non potevano essercene. Molto distanti da quei ragazzi, quindi, figli del boom economico degli anni 60, che esprimevano nella musica e nel vestire il rifiuto di una omologazione già scritta. Anche il fumetto sente questa forte scossa. I vecchi eroi a tutto tondo come Cipollino o Chiodino vengono superati dai nuovi miti, magari miti negativi. Come ricorda lo stesso Antonio Faeti, oggi conclamato massmediologo, allora maestro di scuola, c'era da dolersi che i bambini al ben disegnato ed educativo Cipollino di Rodari Verdini si preferisse l'assassino delle sorelle Giuliani, diabolico. Ricordo che quando i miei bambini, perché allora facevo il maestro, all'inizio degli anni 60, erano tutti schierati con Diabolik, io che ero competente ed ero collezionista come loro, facevo spesso osservare con i mezzi d'allora, con ore diapositive o i proiettori a sovrapposizione, quello che io sentivo profondamente, che rispetto a questi tre colossi anche dell'arte grafica fumettistica, Diabolik era pessimo, era disegnato almeno all'inizio, poi con l'arrivo di Zaniboni migliorò molto, ma non era nemmeno lontanamente paragonabile. Era il fatto che Diabolik metteva in evidenza il lato proibito della narrazione, cosa che nessuno dei tre grandi giornali poteva fare, perché ognuno dei tre aveva una missione educativa molto precisa, molto sentita, molto ribadita, mentre, anche se è vero che le due creatrici di Diabolik erano maestre come me tutte e due, Diabolik non ce l'aveva. Dorelitz ha colpito di nuovo. Il terrore regna sulla Costa Azzurra. Conosco questa risata, signori. Dorelitz qui! Nessuno può fermare Dorelitz. Arriva la bomba, che scoppieri in bomba, si tratta di me, dai reggiti forte. Ma davvero i giovani amavano il crimine e l'efferato, confermando l'antica tesi secondo cui i fumetti erano cattivi maestri per avvelenare generazioni intere? A tal proposito, così diceva Max Bunker, autore di Criminal e Satanic. Noi vogliamo raccontare le storie di un assassino efferato. Però, nello stesso tempo, come succede ad esempio in Nightmare,

la notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate, come mai? Ma che colpa abbiamo noi? Se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi, ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Comunque il pioniere pagò assai caramente questi giudizi severi, queste titubanze, questi sospetti. Poi di fatto venne travolto, venne messo fuori gioco da questa nuova wave musicale e anche dei fumetti. In questi anni 60 di fatto il pioniere languì, venne retrocessa e inserta in unità prima e deludi poi, ripubblicò storie già pubblicate fino a scomparire nel 70. Ma non solo il pioniere rimase vittima di questo cambio di passo dei tempi, in particolare dei giovani. Lo stesso ben più corposo e conclamato vittorioso, addirittura chiuso i battenti, e l'imperatore, il Corriere dei Piccoli, sempiterno, stampato fin dalla fine del 1800, rischiò la pellaccia, salvo poi salvarsi, cambiando strategia editoriale. I ragazzi intanto si sono fatti più scaltri, crescono più in fretta. Di Tamarindo e di Bonaventura non sanno più che farsene. Il Corriere dei Piccoli si adegua ancora una volta ai tempi, affidandosi ad autori più smaliziati, Battaglia, Frollo, Prat, Iacovitti. Le loro storie, storie per bambini adulti, tecnologici, scafatissimi, sono certo più ricche di quelle di un tempo. Questo è Zen Crowd del trio di Sir Ramsey Lewis, altro hit lanciato da Renzo Arbore nella sua Per voi giovani, un'altra trasmissione di successo per radio. Ma un'ultima notazione sul pioniere: dopo qualche settimana da quelle roventi polemiche sul beat e i capelloni, il pioniere recupera, mette una foto con didascalia e con un gruppo molto famoso a Londra, i Rolling Stone. Love me, hold me, love me.